E io come ogni anno non vedo l'ora che sia carnevale per poter mettere il rondò veneziano in trasmissione. Oh, che soddisfazione, il rondò veneziano come tanti anni fa. Spero di aver strappato un sorriso anche al nostro Davide Paolini. Ciao Davide. Ciao. Da quanti anni fa c'era il rondò veneziano? Il rondò veneziano e il carnevale portano allegria ovviamente, ma portano allegria ovunque. Nelle piazze, ma anche in cucina, ma anche a tavola portano grandissima allegria. E sì, come si spiega, diciamo, questo arrivo di dolci, di zucchero, di tutto quello che è, come posso dire, piacevole, perché il carnevale deve essere una festa e quindi deve essere così. E allora in tutta Italia, diciamo che esplodono nelle pasticcerie un po' ovunque queste montagne di dolci. Ecco, è la cosa più divertente di carnevale, che girando l'Italia, quando uno a carnevale gira l'Italia, vede le stesse cose che sono chiamate con i nomi diversi. Chiacchiere, ma le chiacchiere, io ho capito perché chiacchiere, bugie, perché a carnevale ogni scherzo vale, quindi si può veramente raccontare, chiacchierare. Ma pensa che Davide, dalle tue parti in Romagna come si chiamano? Dalle mie parti si chiamano frappe e poi si possono chiamare anche cenci in Toscana, e poi sfrappe, e poi sfrappole, e poi galani a Venezia, e poi costoli. Ecco, i costoli, anche questo è un nome molto diffuso. E poi lattughe o maraviglias in Sardegna, fiocchi, fiocchetti. Insomma, c'è, diciamo che la stessa cosa che è fritta. Ecco, diciamo subito che la caratteristica principale dei dolci di carnevale qual è? Di essere fritti, perché, come posso dire, per una volta all'anno bisogna anche diciamo lasciar perdere quelli che sono i codici salutistici, che tutti dicono che se il fritto fa male, però se ogni cosa che la friggi poi non so come alla fine piace, quindi ci deve essere qualcosa di molto particolare. Però io ti ho fatto un elenco di quello che sono appunto le chiacchiere che abbiamo sono, nonostante il nome diverso sono la stessa cosa? Sono la stessa cosa, però possono essere fritte o fatte anche al forno, certo. Perché negli ultimi anni c'è anche, diciamo, questo nuovo modo di cottura, però io credo che vadano fritte. Vabbè, quando fai il peccato di gola lo fai bene. Sì. Poi c'è un'altra cosa molto importante a carnevale, che sono le castagnole. Le castagnole possono essere fatte in mille modi, anche queste, perché dentro ci può essere pinoli, uvette, ma anche queste sono fritte e ripiene. Quindi le castagnole sono veramente una delle delizie. Io le adoro, le castagnole fritte, perché dalle mie parti si chiamano frittelle, punto. Arriviamo alle frittelle, perché le frittelle sono leggermente diverse, secondo me, perché le frittelle dentro ci trovi di solito diciamo dei ripieni particolari. Ci puoi trovare la crema, ci puoi trovare il riso, ci puoi trovare lo zabaglione, mentre le castagnole dentro, sì, possono avere anche questo un ripieno che è lo stesso delle frittelle, però c'è una distinzione. Beh, le frittelle io me ne mangerei 15, quando nei bar vedo le frittelle cerco di stare lontano, perché poi sennò è finita. E si chiamano frittelle, ma ecco, devo dire che a Venezia si chiamano in maniera particolare, su cui molti ci hanno ricamato, si chiamano fritole. Certo. Io ricordo Sergio Saviane, quando scriveva sull'Espresso, queste sue rubriche straordinarie sui mezzi busti, che fece le frittole straordinarie, veramente incredibili, ironizzando ovviamente su questo termine, perché a Venezia significa anche un'altra cosa, quindi probabilmente lui giocava sull'altro. Certo. Mentre a Napoli sono le zeppole, soprattutto ci sono le zeppole, che vengono anche poi a Napoli e dintorni, vengono anche il giorno di San Giuseppe, e quindi le zeppole, anche queste, sono straordinarie. Chi passa per Napoli sicuramente non può mancare di mangiare. C'è da dire anche che comunque a carnevale viene usato anche molto il miele, in molti dolci fritti vengono ricoperti col miele. E poi ce ne sono anche altri con il cioccolato, ad esempio in alcune regioni c'è il sanguinaccio dolce, però non ho finito, perché ora continuiamo, perché ci sono altre usanze e molto diffuse. Ad esempio in Toscana c'è la schiacciata alla fiorentina, che è molto diffusa anche sul resto dell'anno, però a Carnevale diciamo che raggiunge il picco massimo. Perché in Toscana è così importante? Perché un po' il Carnevale, che ne dicono a Venezia, ora qui faccio, diciamo, provoco e chissà cosa succederà. Scatta la lite. Beh, dopo. Cioè, il Carnevale nasce con Lorenzo dei Medici a Firenze, con i famosi carri carnevaleschi e i canti carnescialeschi, dove appunto molti di questi dolci, a cominciare anche dal berlingozzo, nascono appunto in Toscana durante il periodo medicio. E in Alto Adige c'è un'altra cosa di cui io vado matto, se la trova, sono i krapfen. Ecco, i krapfen con la marmellata al mattino sono diffusi in Alto Adige, è vero, però ormai si trovano in qualsiasi pasticceria, ma anche questi pare che siano nati durante il primo periodo di Carnevale. E un altro dolce che è nato durante il periodo di Carnevale, che ormai è diffuso in tutta Italia, però anche questo ha, come posso dire, dei nomi e cognomi, cioè da dire dove è nato, dove c'è qualcuno che dice è nato qua, è la mantovana, le mantovane. Le mantovane che tutti pensano che sia nata Mantova. Mm-hmm. No, a quanto pare le mantovane più famose sono nate a Cossato, in provincia di Biella, in Piemonte. E sai perché si chiamano mantovane? Perché io si non lo mantovane? Sapevo fino a poco tempo fa. Perché la forma ricorda le tende mantovane, da cui il nome. Ma che quindi, strano, che strano. È strano, il cibo è molto strano, l'antropologia del cibo è veramente stranissima, perché appunto tutti questi dolci di cui abbiamo citato, cioè, nascono proprio perché è il periodo della festa. Ma a quanto pare, i dolci carnevaleschi sono molto diffusi anche in Spagna in questo periodo e addirittura in Germania. Quindi vuol dire che, come posso dire, è un fatto carnevalesco diffuso in tutto il mondo. E allora, però, in questo periodo sicuramente ci sono molti che mandano, diciamo, come regalo in questo periodo, magari a qualcuno che gli ha raccontato la verità, un bel pacchetto di bugie. Mm-hmm. Succede che arrivano le bugie e queste sono appunto come un segnale dolce che viene mandato, come dire, guarda, non raccontare più bugie. Beh, dai. Quindi, però è così, alla fine è un messaggio dolce. È un messaggio dolce, sicuramente. Come sai, in Romagna c'è un vino che si chiama Pagadebit e veniva usato un tempo quando tu, diciamo, avevi crediti verso qualcuno, allora gli mandavi questa bottiglia di vino che si chiama Pagadebit. Era un promemoria. Immediatamente potevi capire. Davide, abbiamo ancora 3 minuti, so che hai un'altra chicca per noi. Ho una chicca di un locale di Milano che, diciamo, io lo amo molto, però non ne ho mai parlato, ed è un locale che si chiama Rovello, che era in via Rovello 18, ma ora si è trasferito Corso Garibaldi, angolo Tivoli. Questo locale è un po', come posso dire, il covo di coloro che amano i vini naturali, perché Gualtiero, che è il patron con Cinzia, ha una cantina straordinaria di vini naturali e anche di annate straordinarie, e chi va in questo locale va appunto sicuramente anche per mangiare, perché ad esempio c'è una carne, i piatti di carne, è una carne che arriva da Romanengo, da un macellaio molto bravo che si chiama Cazzamari. Ci sono anche i primi piatti importanti, di pasta asciutta, molti fatti anche col peperoncino, la cipolla, chiama questi diciamo gusti forti. Mm-hmm. Ci sono molti dolci fatti in casa, però diciamo che il richiamo di tutta una serie di produttori che magari sono introvabili da altre parti è fondamentale, e allora lì si trovano dei grandi barolisti, diciamo, con una mentalità molto particolare, tradizionale, come Rinaldi e Mascarello, vini che poi è difficile trovare da altre parti perché le bottiglie in circolazione sono veramente poche, e anche Cappellano, sempre tra i piemontesi. Oppure c'è una grande presenza di vini, quelli del confine tra Italia e Slovenia, che sono prodotti in maniera particolare, allora li troviamo anche delle bottiglie molto vecchie di Gravner, di Radicon, e poi di Damian, di Vodo Pivec. Quindi diciamo che si trovano delle chicche che altrove non si trovano. C'è appunto una scelta di vini e anche di annate che è veramente molto ma molto importante. E devo dire che poi sono rifatti anche dei vecchi piatti, ad esempio il pancotto. Ah, questa più, la storia della mia famiglia, il pancotto era... lo facevi? Come lo facevi? Allora, ti posso confessare che io odio il pancotto. Mia nonna, quando era malata, il pancotto sempre. Pancotto e riso col prezzemolo sono i due piatti che non posso mangiare. Ma magari lo proverò lì per riconciliarmi con il piatto, il pancotto. Sono due piatti da malato, in effetti. Come il riso al latte che io tanto adoro. Sono veramente piatti da malati, è no, vero. Dai, allora però, andrò a Rovello a provare questo pancotto per riconciliarmi con le memorie. Sono piatti dell'infanzia. Il cibo è soprattutto memoria, quindi secondo me è importante questo. Ogni tanto, invece di andare a gustare la creatività, va a gustare la memoria, forse si vive ancora meglio. Sì, è vero. Davide, grazie per questa indicazione, per questa chicca. Il prossimo sabato io sono a Sanremo. Se ti va, parliamo un po' di Sanremo. Non ti faccio cantare? Magari. No, vabbè, guarda, io sono stonato come un asino, mi dicono tutti, quindi sicuramente non però Sanremo lo seguo, ecco. E quindi sicuramente farò tutto su Sanremo. Dai, anche perché fantastico. Sanremo c'è una chicca di un prodotto di cui ti parlerò che è unico. Ah, fantastico, quindi al prossimo sabato noi saremo a Sanremo e anche Davide Paolini ci farà scoprire sempre qualcosa di nuovo. Grazie Davide, al prossimo sabato. Al prossimo, ciao.